un particolare, non è il solito capo di discesa, ma c'è una parte che può locale dall'altra, no. Ha fatto un collegamento un po' particolare, ma va che è una meraviglia, guarda, veramente molto molto bene. Ma poi lui è una buona lì. Lui nella zona di Sassari dove abito io è zona alta, capito? Lo so, è zona buona dove abita lui, è vero che è zona buona, però devi considerare che è anche in orizzontale, non è in verticale. Quando pensi che con l'antenna grande, ma arriva a 9,20, 9,22, quando proprio dà un pochino di potenza, per cui ma se mi arriva già a 9,15, 9,17, già con questo dipolo così, capita la grande. Io penso che quello che ho fatto io, quel dipolo che stavo provando a casa, è uscito bene, sarebbe proprio più 10 a te. Lo so. Adesso devi pensare che lui ha la strumentazione, lui a parte il fatto che adesso fa, no, le antenne, a parte quello, però ha anche la strumentazione, dunque li può calibrare bene, vede tutti i parametri, per cui li regola proprio a puntino, ecco com'è. Certo, anche io ho degli strumenti nuovi qua. Ora c'ho adesso l'accordatore, su 680 sto utilizzando l'FMG. L'FMG è un ottimo analizzatore. Io non so quale marca utilizza lui, però anche quello è un ottimo. Ma tu stai dicendo il coso, come si dice, l'accordatore antenna, FMG, l'accordatore antenna. Ah, io ho l'accordatore FMG di antenna, l'accordatore d'antenna praticamente. Fa tutte le frequenze e tutte le bande. Ho capito, sì. Sì, beh certo. Lo so, quello sì. Vabbè, questo già lo sai, questo ce l'ha dentro il contenuto, l'accordatore, vabbè così. Ma non ha bisogno di essere accordato perché l'antenna è accordata al 100%, mi dà 1,2 di stazionari, per cui va più che bene. Allora giù, guarda, io sono accordato qua, se tolgo l'accordatore stazionario e non ne ho niente, non ne ho nulla perché ho tarato anche con l'antenna lì. Accordato neanche si muove, quindi non ne ho neanche bisogno l'accordatore, pensa tu. E sto pilotando praticamente con 10-20 watt modulati. Ok. Sì. Certo. Va bene. No, io ripeto, sto andando con quasi 15 watt, 14,5, 15 watt. Dunque, vedi bene come. Vabbè, comunque. Tu pensa che da Tino arrivo a 9,30, arrivo, nonostante questi pochi watt, ma infatti a me mi meraviglia quello, come mai, con questi pochi watt arrivo a 9,30 lì da Tino? Non lo so, strano, una cosa molto strana. Io adesso questa che ho piazzato, questa grafia, allora io l'ho fatta, praticamente ho fatto 2,75 di filo centrale e 2,65 di radiali, capito? 2,65, sei già accordato, non lo so, vabbè, bisogna vedere come l'hai messo, chiaramente può essere accordato anche con la misura, però di solito è 2,62 per ogni braccio, di solito, però dipende anche dall'altezza, dal tetto o dal terreno dove è stato installato, capito? Perché anche quello conta per accordare bene il stazionario. E certo che sì, comunque funzionava bene questa Gran Prix, l'ho costruito. Allora io avevo una base già esistente di una Gran Prix vecchia, e praticamente era tutta rotta, quindi ho tagliato tutto e praticamente l'ho ricostruita, ecco. Ok, ho capito. Sì. Bene, adesso che strano, adesso è 15 watt pieno, poco fa era 14,5, adesso è 15 pieno, ecco qual è il problema. E io sono convinto che vuole pulito il potenziometro, quasi quasi domani mi prendo una briga, me lo smonto, il disossidante, ce l'ho quel prodotto adatto, quasi quasi gli do una strussatina e vediamo un po' cosa succede. Ma non c'è bisogno di smontarlo, e togli la manopolina a Giulio, metti a retta a me. Togli la manopolina con il tubicino che c'è e glielo sfrutti dentro, e poi va bene lo stesso, non c'è bisogno di smontare nulla. Il tappo lo devo aprire, no? Se no come faccio? No, no, no, senza togliere il tappo, togli la manopola anteriore. Come ho fatto lui, gliela sfini, la manopolina, c'è la manopolina lì, gliela sfini e glielo sfrutti dentro e vedrai che risolve il problema. Ah, ho capito cosa intendi, sì sì, cioè direttamente dal perno, dai, metto la vista al perno e sfrutto dentro così. Trappa di positivo, non smotti nulla, funzionano a stessi. Quasi quasi mi hai dato un'idea, lo sai, quasi quasi mi hai dato un'idea, vediamo un po'. Se no al limite tiro fuori il coperchio di sopra e lo sfrutto da dentro, è uguale. Comunque, se funziona così tanto è guadagnato. Ma sai come ti dico io, togli la manopola. Glielo sfrutto un paio di spruzzate dentro e poi la giri con le mani ogni tanto, per pulire bene, capito? E vedrai che risolve il problema. Ma c'è bisogno di aprirlo tutto. Ok. Tu pensi che riesci a penetrare dentro? È possibile, sai. È possibile che riesca a penetrare dentro. Adesso mi sta dando 15 watt e mezzo in questo momento. Ecco, vedi, questo che non riesco a capire, a momenti di più, a momenti di meno. Come ci riesci a penetrare? Per forza penetra dentro. Una volta che tu non lo spruzzi, dentro entra, tranquillo. Ok. Domani mattina ci provo, domani mattina voglio spendere mezz'ora per fare questo lavoro, vediamo un po' se riesco a risolvere, speriamo bene, tutto lì fra. Tranquillo, qua io ho 680, il 680 lo sai che c'è gli slider, no, per aumentare le potenze e tutto, mai problemi mi ha dato, mai. È tenuto abbastanza bene questa radio e c'è un mediano fermo e giù. Sì, beh, gli slider sono più facile pulirli con quel disossidante, certo, perché lì c'è la corsia praticamente che spusti e va bene, però anche questo, come stai dicendo tu, potrebbe funzionare ugualmente togliendo la manopola. Cappa, cioè ti sto dicendo che l'ho fatto io, va benissimo, va bene. Sai come ti dico io, è praticamente non sbagli, capito? E funziona alla grande, tranquillo, non c'è problema. Ok, domani mattina mi prendo la briga di farlo, domani mattina voglio passare 10 minuti a fare questo lavoro, vediamo un po' se mi riesce. Aspetta Giulio, provo a abbassare un po' la potenza, ci arrivo. Adesso è 5, ma si è abbassata anche la radio, e la radio si è abbassata molto. Guarda adesso, 1, 2, 3. 7 e mezzo pieno, e la radio è ritornata buona. Adesso sto pilotando con 50 watt modulati, Sì, 7 e mezzo anche leggermente abbondante. Per cui la radio è tornata normale. Ecco, la radio adesso c'è. Guarda adesso 1, 2, 3. Guarda adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova 1, 2, 3. Sì, va sempre bene. L'hai aumentata appena appena, però era più pulita poco fa, perché adesso sta arrivando al limite quasi dello strappo. Prima era più pulita, va bene lo stesso, sia ben chiaro, però prima, il passaggio precedente era più pulita. Allora aspetta, le abbasso. Aspetta. Così. Sì, adesso, ma adesso sei leggermente calato il segnale, sei e mezzo, la radio è buona, però sei calato leggermente il segnale. Aspetta. Ora, guarda, adesso dovrebbe andare bene. Sì, 7. Adesso Santiago 7 e la radio è come prima, dai. Buona. Adesso è senza processore, Giulio, Sì, sì, ma è ottima lo stesso, non c'è problema. La radio è ottima lo stesso, anche senza processore. Adesso è il col processore inserito, com'è? È leggermente più forte, dai, ma di poco però, meno, niente di particolare, capito? Per cui va benissimo anche senza il processore. E Sì, vabbè, dai. La uso così allora. Già andare. Sta uscendo. 50 watt modulati, eh. Ok, sì, sì. Sette di segnale. Va bene, fra. Va buona, comunque. Cazzo, ma non entra nessuno stasera, bobo. Adesso sto pilotando con l'MC60 io, capito? Sono riuscito a recuperare un MC60 nuovo, giù, un affarone, e l'ho piazzato sotto, capito? C'avevo un piccolo problemino sullo spinotto, c'era un filo staccato e quindi a volte fischiava. Ho capito. E l'impedenza quanto la stai usando, a 50 o a 500? Questo è il gol, che ho il cellulare che arriva, quando segnano un gol mi avvisano. Stavo dicendo, l'impedenza quanto la stai usando con il microfono? A 500 o a 50? Allora, praticamente lo sto usando a 50 ohm l'impedenza. Sì, sì, va benissimo. No, io sto usando adesso l'MB4, dunque, no, va bene. Comunque anch'io quando metto l'MC60 anch'io uso 50 ohm. E l'MB4 ce l'ho qua, non so se l'hai sentito, se vuoi te lo faccio sentire. Mettilo, proviamo, dai. Niente di strano che esce anche meglio, chi lo sa. Perlomeno a me mi dicono che esco meglio con l'MB4, figurati un po', magari si adatta meglio alla mia voce, che ne so. Aspetta un attimo, ce l'ho qua, perché mi sono così. Lo rimetto sempre, praticamente ne porto sempre due, perché a volte può capitare che se c'è pure un virus, già che c'è un piccolo casino, non te lo dico, se trovo il cavetto, se lo trovo dove è finito, no, allora ho lasciato il cavetto, per un duello di nuovi, avanti fra, prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ora 1, 2, 3 e va bene, prova a aumentare il volume, guarda adesso 1, 2, 3 allora sai che più chiara, più bella questa radio, lì che hanno ragione quando mi dicono che l'MB4 funziona meglio come modulazione. Mettilo a 5 il volume, come ce l'ho io ce l'ho a 5 il volume dell'MB4, mettilo così. Ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova 1, 2, 3. Questa radio è più corposa dell'altra, l'altra rimane un pochino con i toni più acuti, dai. Questa, ma va benissimo veramente. Io ce l'ho a 5, adesso si aumenta appena, vediamo, adesso ce l'ho a 6, adesso io il microfono l'ho messo a 6, cambia qualcosa? Rimane leggermente più forte. L'ho rimesso a 5, l'ho rimesso a 5 adesso. Adesso l'ho rimesso a 5, che mi va bene così, lo tengo sempre così. Adesso faccio sentire il microfono normale, adesso questo è l'MB4, Va benissimo, va veramente bene, guarda, te lo sto dicendo, come modulazione per me è anche più bella dell'MC60. È più corposa, ecco, ha una modulazione più corposa. Questo gli ho fatto con la musica del provetto, praticamente l'alimentazione la prende dalla radio, quindi lo sto usando senza batteria. Ho capito, no, io addirittura uso la batteria, io non ho preso l'alimentazione dalla radio, ho messo la batteria nuova proprio 10 giorni fa più o meno, e dunque la sto usando sempre così adesso. A me mi hanno detto che questa è migliore come modulazione, perlomeno per il mio timbro di voce dice che va meglio questa, perché io ho un po' i toni alti nella voce, per cui mi mancano i toni bassi, e questo un po' di toni bassi me li dà. questo è il microfono normale suo, di origine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anche questo è buono, più basso ma è buono. Anche questo è un'ottima modulazione, problemi non ce ne sono. Va benissimo, solo che è più basso chiaramente perché è un microfono normale. E questo è il microfono originale Kenwood, ho capito. Ma cosa è un bello questo microfono, eh? Ok. E io invece non ce l'ho, il microfono originale io non ce l'ho. Io ho quello, ho 60 oppure questo, oppure metto un microfono normalissimo, proprio normale, un microfono da 15 euro di qualsiasi baracchino, ho fatto degli adattamenti e va bene lo stesso, funziona ugualmente bene. Vabbè, giù. Okay, lo stesso, però il microfono suo è tutta un'altra cosa, dai. Ma io te l'avevo dato il microfono a te. Sì, l'MC60, è quello infatti che so, che, però adesso l'ho messo da parte e sto usando l'MB4. Eppure a casa ce lo dovrei avere un altro io, di quei microfoni della Kenwood, devo cercare. Perché sicuramente mi è rimasto a casa un altro microfono, perché ne avevo due di quei microfoni. Ok. E a me mi manca, il microfono normale mi manca, a me, mi sai, per dirti, per cui mi sarebbe piaciuto averlo, è la verità. Però no, anche perché quando lo do per riparare è giusto che ci sia il microfono anche. Cosa faccio? Vabbè, secondo che lo do non ha bisogno del microfono, perché il microfono già ne ha lui, e dunque va bene lo stesso. Però è giusto che io, se mando ad esempio la radio fuori, è giusto che mandi anche il microfono, se no come si fa? Vabbè, e si conferma, è certo che sì. Io non ti prometto niente, giù, lo cerco a casa, se ce l'ho, te lo do, non c'è problema. Ok, fra, d'accordo, va bene così, e va bene così. Cosa dire, che ne so, le 8:20, ancora già è presto. Per cui, e vabbè, oggi ho iniziato tardi, io mi ho iniziato che erano più delle 6:30, perché avevo da fare qui a casa, per cui ho dovuto abbandonare un pochino, se no di solito già entro presto, intorno alle 5, io, quando finisce la tappa praticamente del Giro d'Italia. Gappa di positivo. Addirittura questo se lo metti in FM spara oltre quasi 150, meglio così. Lo so, ma vanno bene, 140 va benissimo. Io poco fa stavo parlando proprio con un amico che abita nella zona lì di Sant'Orsola, no? Lui il tempo fa, quando sarà un mesetto fa, se l'ha comprato da Cagliari, però gli hanno fatto un prezzo di favore, ma di favore veramente, perché gli hanno dato il 140 e l'MC60 per 150 euro, ma siccome era un amico, quello gli ha voluto fare questo prezzo così basso, capito? Quanto? 150 euro? Sì, sì, 150 euro, capita, non compri nemmeno il microfono, compri con quei soldi, comprandolo nuovo, chiaramente. Per dire no, però dice era un amico e magari l'ha voluto agevolare per quel motivo lì, l'ha comprato da uno di Cagliari. Gappa di positivo. No, diciamo, questo è il 680 questo che ho io. Ora c'ho il 680, il 140, la TV, il 150 e l'MC60. Sì, sì, lo so. Vabbè, 680 c'è anche 6 metri ed è anche più completo, però anche il 140 funziona la meraviglia. Diciamo che sono quasi simili, dai. A parte i 6 metri sono simili, 680 e 140, no? Sì, sono uguali, chiaramente questo qua c'è 50 MHz in più rispetto al 140, però per il resto è uguale, dai. Appunto, sì che va bene così. No, ma i Kenwood sono degli ottimi apparecchi, soprattutto in AM sono degli ottimi apparecchi. Questo, insomma, mi dispiace un po' che non funziona come dico io, anche se non è che mi interessa utilizzarlo a potenza alta, no, quello non mi interessa. Però mi dà fastidio, quando una cosa non è perfetta, a me mi dà fastidio, veramente. Quando una mia cosa, qualsiasi cosa che sia, se non è perfetta come deve essere, mi dà fastidio. Ma certo. È così in definitiva, capito? Quando non funziona una cosa di fastidio. Ci vuoi fare. Ma quello lì è una fesseria giù, dai. Sì, ti stavo dicendo l'accordatore è un FMG 94, 945E. Buonasera. Buonasera. Sì, beh certo, l'accordatore va benissimo. No, questo già ce l'ha dentro il contenuto, per cui i problemi di accordatore già lo sai, non è. Avanti l'amico, buonasera. Ciao Giulio, e ciao l'amico che non l'ho riconosciuto. Poi ciao Tony. È Franco California che ti mando avanti. Avanti Fra, per Tonino Kawasaki. Ciao Tonino, buonasera, non so se mi ascolti. Il contraccambio del rapporto 5-9 è qua, Tonino, buonasera. Ehi K, Santiago 9, tu qua, perfetto, il radio c'è, non è una dei, come amplificata, una delle migliori, ma senz'altro sei fuori, e beh. No, sono in campagna, Tonino, e devi considerare che sono in un fosso, capito? Quindi anche, diciamo che ho avuto anche da quello. Allora sei perdonato, dai. Io anch'io sono in campagna. Sono piccolo, piccolo, piccolo. Ah già, va bene, 5-9 è qua. La gran, magari a Giulio gli arrivi più forte, perché c'è più vicino a lui. Io sono proprio nel fosso, capito? A Canica. Io sono in zona Sacamiglio, non è che sono vicino a Giulio, Giulio ha dei punti. Lo so, magari gli arrivi meglio a lui. Comunque a me arrivo bene qua. Io sto uscendo con una gran play autocostruita, infatti adesso la provo, visto che va bene, la lascio stare. Certo che va bene. Avanti Giulio. Ok Tony. Beh certo. Vabbè, siamo lì. Anch'io stavo dicendo a Franco che ho un problemino sul cardio qua, che non sale di potenza. Arriva a 15 watt e basta. Niente di più. E questo ne dovrebbe dare 100, ma non perché mi interessi la potenza, no, assolutamente no. Però mi dà fastidio che ho l'apparecchiatura, cioè io sono fatto così. Quando ho una cosa che non è perfetta nel funzionamento mi dà fastidio, Tony. Tutto lì. Anche se esco bene lo stesso, però sono malato, hai capito Tony? Cappa, certo. Guarda, invece a me oggi ho sistemato tutto il mobile dove c'è la stazione, tutto messo a posto, in ordine da quanto, accendo il baracchino, provo a fare ola ola, niente, lo smitter zero. Cioè, saliva ma non niente radio, niente picchi positivi, e cosa è successo? E si è bruciato il finale, cercando niente, prima ci ho scocciato lo spettro, si è mia luce, luce stasera di nuovo, niente, zero. Mi guardo le manopoline, il making a zero c'era. Vabbè, succede Tony, arrivi 9-10 pieno e modulati 9-15, per cui va più che bene, va più che bene Tony. Cappa. Mi devo sollevare il palo, ce l'ho 6 metri, devo mettere 3 metri sopra, ci devo mettere. Io Tony devo comprare il cavo, quello a quell'altro, invece a me, Giulio, cercando, mettendo ordine, ho trovato una matassa di 40 metri in Puglia. Capita, sei contento, così hai già il cavo che ti serve. Quando fai il palo nuovo, però fate la cannocchiare, Tony, così almeno lo abbassi con più facilità, perché sennò quando metti un palo intero ci vogliono più persone, perché è pesante. Insomma, bene o male, fatelo a cannocchiare, se ci impieghi un po' di lavoro in più, credo che tu hai anche la saldatrice, i bulloni e i dadi, buchi il tubo e ci cambia il dado, e poi avvita il bullone, così. Quello che hai sentito è un gol che hanno fatto adesso, perché io ricevo tutti i gol che segnano le squadre. Avanti ancora Tony. Cappa, no, io non sono tifoso proprio del calcio, guarda, sono negato, non mi piace. Quindi. E niente, no, io ho il palo maestro che già da 2 pollici ho fatto il foro passante, 2 fori passanti, ho messo i bulloni, l'altro è il telescopico. Però giustamente quello che parte dalla base lo lascio a 2 pollici. Lo prendo 1,5 pollici e continuo a salire, capito? Sì, sempre telescopico per quello. Ma no, adesso tempo brutto, piove di nuovo, un casino. Avanti. Come si chiama? Non mi ricordo più. Franco. Questa è la riprendo io. Sì, in definitiva. Ma io guarda, voi stavo per scoprire, ce l'avevo e mi si è piegato in 2. Per quello non mi fido a mettere quei pali lì. Preferisco mettere i tubi d'acqua. Io ho un tubo d'acqua da 2 pollici, fate il conto. Tu pensa che da solo, l'antenna che è quasi 7 metri, più 6 metri di palo, mi stavo sbilanciando, mi stava cadendo, l'ho risollevata ma ha giocato un infuzzo, un pacca redaglia. e ce l'ho fatta, ho detto più, infatti come mi è cascato l'ho appoggiato sulla rete, mi è semollato un radiale e me ne è uscito allora rimane così. Quando sarà che mettono l'altro tubo, allora li rimetto il radiale. Pesa troppo. E poi la mato qua c'è questo cappeggiato la mia antenna. Io ce l'ho qua, la dovevo piazzare, ma non la giovana, troppo bisanti, No, io non ce l'ho mandato la 5, io ho quella 5 ottavi della Midland. No, ho capito. No, io ce l'ho mandato la 5 qua in garage. Ma è perché per piazzare, ma non la giovana, dove poi c'ho problema la schiena e non mi fido a fare strappi di nuovo. Anche perché sono stato una settimana e non riuscivo neanche a muovermi. Io non l'ho mai trovato la matola 5, l'ero zicchina a comparare nuda. La matola 5, è una bella antenna, solo che pesa un trono, Ma la stai vendendo? Eh? La stai vendendo? No, è una cosa bella a fare, Tony. Tu come stai vendendo la turbo, giusto così? Prima in un momento ero intenzionato, non sapevo cosa farne, però adesso mi sono reso conto che con la Game Master che ho adesso, quando vado nelle bande del Camito che per fare ascolto, è sorda, non sento un granché, mentre invece quando avevo la Mantova Turbo sentivo anche in 40 metri, in 80 metri, eccetera, eccetera, no? E per cui avevo pensato di rimetterla su la Mantova Turbo, magari solamente lo stilo centrale, senza i radiali, solo per ascoltare intanto mi serve, perché se metto i radiali siamo di nuovo a capo, quando fischia il vento la notte poi mi disturba, non va bene, solo per quel motivo lì ho. Scusa, che colpa ha mettere un'antenna senza radiale, non ho capito, non lo so. Se la piazza è una piazza intera. Ma la piazza solo per ascoltare solo per ascoltare la voglio mettere, perché se ho la Mantova Turbo ascolto anche bene in 40 metri, anche in 80, in 20, eccetera, eccetera. Mentre invece con la Game Master non ascolto proprio ben niente, ascolto pochissimo, Santiago 1, 2, 3, non di più. Per cui, mentre invece con la Mantova Turbo ascoltavo anche 9 più 10, 9 più 5, dipende dalla stazione che trasmetteva, e sentivo benissimo, anzi ti dirò di più, accordavo anche in 45 metri e in quel periodo, quando era possibile, ho fatto diverse QSO di mattina in 45 metri anche, che mi davano Santiago 9,5 e 9,10 dalla Sud Italia al Nord Italia, ti puoi immaginare, per dire no. E per quello è ottima la Mantova Turbo, perché riesci ad avere più risonanza, cioè più ascolto e più soprattutto. Mentre invece la Game Master funziona benissimo in 27, non ci sono dubbi, forse anche meglio della Mantova, però è sorda, per le altre bande è sorda, non ascolti proprio un bel niente. Tutto lì, vai e poi fai girare. Ma scusa, ma non ti dovrei fare un dipolo direttamente per ascoltare? Ti fai un dipolo per i 40 minuti e ascolti lo stesso, non è un problema. Ok, dai, rilanciamo a Torino, vai Torino. Ma Giulio, 45 metri, che frequenza ha? 6.858 mi sembra, 6.800, è una cosa così, dai. Te lo dico subito, mi aspetta un attimo che passo, la leggo, intanto io ce l'ho memorizzata, un attimino e te lo dico subito. 6.500, ciao a tutti, 6.585 era la monitor, 6.585, ora deserta, ciao Franco, ciao Tonino, QRX per me. Ciao Marco lì, 6.585, ora deserta, andare. 6.585, oppure 6.590, siamo lì, su quella frequenza io ci parlavo, adesso non c'è più nessuno, sia ben chiaro, io non ho più sentito nessuno, ma da quando ho la Game Master, questo risale già due anni e mezzo fa, perché prima avevo quell'auto costruita, e anche quella, essendo della stessa maniera, dello stesso tipo della Game Master originale, anche quella in quelle frequenze era sorda. Però ripeto, in 45 metri io ci parlavo, accordavo con l'accordatore che c'è interno alla radio, e tranquillamente mi davano 9,5 e 9,10 sia nella bassa Italia che nell'alta Italia, per cui vedi bene ho Tony. Va bene, dai, io preparo già, che è già quasi ora, così mi inizio, mi guardo anche il telegiornale, ok. Ciao Franco, ciao Giulio, state bene, buon proseguo, alle prossime, ciao ciao. Ok, ciao ciao Tony, alle prossime, dai. Ciao, avanti Franco. Bene bene, vai Giulio. Sì, forse ci siamo sovramodulati. Ciao Franco, cioè ciao Tonino, stavi bene, dai, salutoni, grazie per la chiacchierata. Avanti Fra. Ciao Tony, buon carica, buon tutto e ce le ascolto al prossimile. Andar bene mela. Vai giù, anda bene. Mi fa un po' anch'io, sacco. Intanto adesso mi chiamano, sì che. Anche perché ho la porta chiusa adesso, boh, perché c'è nell'altra stanza c'è mia figlia che sta seguendo un corso a distanza, lì in line, un corso di lavoro, per cui non voglio disturbare, capito? Si apre la porta, sono di solito io modulo con la porta aperta in modo che da giù se mi chiamano sento, ma con la porta chiusa invece non sento proprio un bel niente. Infatti adesso altre 4-5 minuti e dopo che chiudo fra avanti. Ecco c'è, riprendo via anche io, Franco vado a fare carica batterie. E Franco sento anche io a fare carica, bisogna riportarsi, sennò qua è un problema. Ma avevo freddo, che campagna allucinante che. Mi hanno già chiamato, mi senti il telefono? Mi stanno telefonando. Ciao Frate, devo lasciare. Ciao, grazie per la chiacchierata. A domani, dai, ciao. Ciao Giulio, buona serata, buon tutto, buon carico, ce la riascolta domani. Salutami anche gli amici che sono ascolti, per me è quello lì. Ciao ciao.